Bene, siamo pronti per iniziare e vorremmo darvi il benvenuto alla presentazione del libro Introduzione ai femminismi, curato da Anna Curcio, che poi vi verrà presentata approfonditamente a breve. È un libro che è appena uscito per Derive a Prodi ed è un excursus sulle storie e le varie prospettive e riflessioni che si sono succedute nel corso della storia del femminismo e dei femminismi. Io vorrei spendere qualche parola in più per l'archivio Primo Moroni e la libreria Calusca che ha organizzato questa presentazione dandovi qualche spunto su come l'archivio Primo Moroni e la libreria Calusca sono entrati in contatto con il movimento femminista negli anni 70. Diciamo, questo incontro è avvenuto nel 1970 con i libri verdi di Rivolta Femminista di Carla Lonzi. Primo Moroni aveva trovato questi libretti che circolavano e si era interessato subito a queste nuove riflessioni e prospettive che questi libretti stavano dando. Così inizia un rapporto con Rivolta Femminista che vi verrà poi diciamo illustrato meglio da una conversazione che potrete vedere nella mostra che è stata curata in archivio tra Ida Farè e Primo Moroni. Da questo incontro le donne hanno iniziato a partecipare sempre di più attivamente alle attività della libreria Calusca, proponendo loro stesse dei testi e delle monografie delle riviste da poter leggere e consultare. E quello che abbiamo cercato di ricostruire attraverso la mostra è proprio questo. Oh, sì, due parole quindi sulla mostra, che è una mostra con i materiali d'archivio dell'archivio Primo Moroni. Abbiamo pensato che questa fosse una bellissima occasione per tirare fuori, discutere insieme, disarchiviare questi materiali che sono spesso lì archiviati. E potrete trovare a seguire, quando saliamo a vedere la mostra, ci sono diverse riviste dagli anni 70 ad oggi, ci sono le più famose, c'è cioè Fuori, ci sono dei numeri di Sottosopra, c'è Zairà, ci sono due numeri di Grattacielo, insomma le più famose, fino poi ad arrivare ai vari opuscoli autoprodotti su. Da vari movimenti femministi, dalle donne, e ci sembrava appunto una bella occasione per esporli e un punto di partenza per dare valore a questo materiale. Quindi la mostra rimarrà qualche giorno, ma poi invitiamo tutti. Questi materiali sono sempre in consultazione nell'archivio Primo Moroni, che è sempre aperto per la consultazione tutti i giovedì e venerdì dalle 3:30 alle 8. E quindi niente, questo. E darei subito la parola a Elvira, che poi ci presenterà le nostre ospiti e poi iniziamo. Grazie mille. Ecco, buonasera, grazie a tutte e a tutti e per questo incontro. Grazie Sara e Valentina per aver accolto appunto la proposta e costruito insieme, anche con appunto un ringraziamento alla Libreria Calusca, all'Archivio Primo Moroni e al COX per appunto l'occasione della presentazione appunto di questo testo a cura di Anna Curcio, Introduzione ai femminismi, appena uscito per Derive a Prodi. Diciamo che il testo è frutto, intanto vabbè, vi presento Anna Curcio, che è la curatrice del volume, anche autrice di uno dei saggi sul femminismo marxista della rottura, e che diciamo il lavoro è l'esito di uno dei potentissimi seminari che la Mediateca Gateway, che è anche appunto Mediateca InfoShop e Archivio del Pensiero Critico, sviluppa e che seguiamo sempre con grande interesse e che avevamo avuto qualche mese fa proprio in occasione della presentazione che c'era stata alla Casa delle Donne con Silvia Federici, in quanto Anna diciamo, si è occupata di tutto il lavoro di traduzione nel contesto italiano dei testi di Silvia Federici. Poi a dialogare con e appunto sollevando un po' di questioni, commenti e riflessioni intorno al testo, Elena è attivista di Non Una di Meno e del Cantiere, e che è una presenza importante anche in relazione a, insomma, agli ultimi anni con la ricomposizione politica delle lotte femministe intorno alle questioni della violenza, lo sciopero e altre, insomma, osservazioni che poi tirerà fuori, e Eleonora Meo, che invece è politicamente legata alla Casa delle Donne di Napoli e accademicamente all'Orientale di Napoli, che comunque si è occupata anche di questioni legate al paradigma estetico, l'immagine, il postcolonialismo, il genere. Insomma, l'ho presentata velocemente, ma avremo modo di dialogare. E sono molto contenta di questa opportunità, perché il testo, che è apparentemente, come lo definisce Anna, un vademecum, un piccolo prontuario, in realtà è di grande complessità e, diciamo, scioglie al tempo stesso intreccia una serie di nodi teorici. E diciamo che il testo c'è una tensione che percorre un po' tanti dei saggi, e comunque anche la struttura corale, plurale di questo lavoro, che è una tensione tra un'elaborazione teorico che teorica anche dentro l'Accademia, in cui per esempio in tanti passaggi di molti dei testi è possibile proprio ricostruire delle epistemologie femministe, delle questioni più appunto legate all'analisi teorica, ma al tempo stesso innervata dentro processi di lotta e pratiche di militanza che appunto fanno il contrappunto in tanti dei saggi. E a questo terzo polo, diciamo che in parte è quello che poi hanno anche accennato Valentina e Sara, che è il motivo della scelta anche appunto di accompagnare il lavoro con una mostra, che diciamo c'è anche una questione legata all'archivio, quindi al lavoro politico della memoria dentro e contro il tempo, per riprendere delle figure, delle appunto situazioni, delle realtà che non solo hanno subito una dimenticanza ma un ampio processo di rimozione, farlo con strumenti diversi, tra cui anche quelli appunto dell'arte, che abbiamo animato. Poi nella seconda parte vi racconteremo anche un po' dei contributi legati alla questione artistica, però appunto questa dell'archivio, cioè, ritengo sia un lavoro politico molto importante. I primi anni a Milano, cioè proprio dentro l'archivio Primo Moroni, c'erano tantissimi dei testi e dei materiali che poi hanno costituito degli affondi per fare delle ricerche e quindi rivisitare anche delle esperienze legate a una radicalità politica che hanno avuto invece una differente, appunto, cioè, diciamo, un differente processo di rimozione. Anna lo definisce un vademecum che è efficace come definizione, però di fatto è più quasi un grimaldello, cioè una serie di strumenti che possono, diciamo, aiutarci un po' a appunto sciogliere dei nodi teorici o capire quella che un po' in tutto il testo è quasi una triade di capitalismo, patriarcato ed eterosessualità. E soprattutto appunto nelle cinque tappe che costituiscono le voci plurali che raccontano appunto dal femminismo marxista della rottura, il femminismo nero, il pensiero della differenza, il femminismo materialista, la questione dei diritti, la critica all'eterosessualità, tanti, diciamo, è vero che ci sono appunto varie posizioni contrapposte, molto diverse, ma al tempo stesso, almeno dal mio punto di vista, è stata anche un'occasione per sciogliere dei passaggi, mettere a fuoco con più nettezza anche le due anime del femminismo italiano: da una parte quella delle rivendicazioni del salario al lavoro contro il lavoro domestico, oppure diciamo il femminismo dell'autocoscienza, che soprattutto qua a Milano ha avuto una presa più forte. Diciamo che volevo, giusto prima di lasciare appunto la parola ad Anna, affermare come diciamo lei, in modo quasi impietoso nell'introduzione, afferma come una crisi dentro diciamo le istituzioni accademiche nella produzione di sapere critico sia innegabile. Quindi, venendo dall'ambito della formazione, il testo è ancora più importante proprio in relazione alla costruzione di controsoggettività, percorsi militanti e appunto un sapere critico rispetto a queste tematiche, di cui, e questa è stata una delle, appunto, degli elementi più utili nella lettura intensa di questi giorni per arrivare alla presentazione di oggi, di come, diciamo, ripensi criticamente la propria la genealogia politica di una serie di femminismi al plurale, e ci consenta anche poi di posizionarci in un ambito che, anche nel contesto della sfera artistico-culturale, che è quella da dove provengo, di fatto è caratterizzato sia nella parte storiografica, nelle pratiche e in tutto quello che riguarda l'ambito, appunto, della sfera culturale, da un corpo oggettivato come bianco, maschile e occidentale, quindi che teneva fuori e tutta una serie di altre, e che questo emerge anche in tanti passaggi. Però l'ultima cosa che vorrei lanciare, appunto, dal mio punto di vista, uno degli strumenti che rendono attuale una parte di questa, diciamo, lettura, è uno dei testi che ho trovato più affini, che è quello, appunto, del femminismo marxista della rottura, riguarda proprio il fatto che durante delle ricerche su il gruppo Immagine di Varese, un collettivo di artiste che erano entrate in contatto con i comitati di Padova per il salario al lavoro domestico, c'era una frase di Maria Rosa Dalla Costa che diceva che i tempi erano maturi per farla finita con sta storia che il femminismo è borghese, proprio perché il fatto di rivendicare la centralità del lavoro produttivo, riproduttivo, che è, diciamo, in cui l'enfasi era posta su un'attività, quindi tutta una serie di questioni legate al lavoro, senza nessuna mediazione salariale, quindi gratuite fondamentalmente, e non su un'essenza, cioè la dimensione femminile dell'essere donna, che era invece essenzialista e legata a un dato biologico, aprioristico e già dato. Quindi avevo trovato sempre molto interessante questo aspetto, e poi soprattutto lo chiamano amore, lo chiamiamo lavoro gratuito, di Silvia Federici, che potrebbe essere il nostro slogan per tanti, appunto, che sono anche qui tra noi, che si occupano di lavoro culturale, e quindi soprattutto in relazione proprio a il lavoro gratuito e l'asservimento del lavoro cognitivo all'uso del precariato, un precariato strutturale, esistenziale, e dal tempo stesso anche la possibilità di in un certo senso rompere la cattura neoliberale dell'arte, e come farlo da una prospettiva femminista. Quindi un po' queste sono alcune delle domande, delle questioni su cui spesso ci interroghiamo, proprio perché, e poi lascio la parola ad Anna, a differenza dei tempi, appunto, del gesto di grande radicalità conflittuale di Carla Lonzi, quindi di abbandono del mondo dell'arte come mestiere fasulla, eccetera, perché troppo connesso, cioè legato, comunque perché paradigmatico di una forma di soggettivazione patriarcale, oggi questa si è sostituita anche a una forma di soggettivazione neoliberale dentro il contesto delle industrie creative e culturali in cui ci muoviamo. Quindi questione del lavoro gratuito, e credo che, cioè, nel senso, spesso la lettura di alcuni passaggi mi servono un po' come strumenti per attrezzare il pensiero rispetto a un tipo di lavoro che può essere legato all'inchiesta, alla materialità dei rapporti di lotta da cui l'arte non può essere separata, quindi da tutta una serie di eccedenze extra artistiche che sono state anche dentro il mondo dell'arte, che, appunto, è importante mettere a fuoco. Quindi passo la parola ad Anna, che... Allora, io vorrei innanzitutto ringraziare Elvira per le sue, il rapporto di collaborazione che ci lega, e per la sua grande disponibilità e capacità di costruire degli eventi intorno a dei momenti di discussione. E devo dire che, non lo dico perché Elvira è qui presente, ma... è presente d'altra parte, non potrei fare a meno, ma devo dire, mi piace molto collaborare con lei, perché riusciamo a tirar fuori delle cose che esulano dalla dimensione più strettamente politica, rispetto alla quale io rimango a volte schiacciata, e invece riusciamo a dialogare su all'interno di un campo più, più vasto. E soprattutto vorrei ringraziare la Calusca, l'archivio Primo Moroni, il Conchetta per questa presentazione che secondo me assume un valore aggiunto, almeno per quanto mi riguarda personalmente, perché io che sono cresciuta e mi sono politicizzata negli anni 90, ho sempre avuto rispetto a questo posto una fascinazione molto forte, perché comunque è sempre stato un luogo di produzione di cultura, di produzione underground. Allora essere qui oggi alla prima presentazione di questo libretto per me è particolarmente anche emozionante, e quindi grazie anche per il lavoro di archivio che avete fatto. Allora, detto questo, provo un po' a interagire con le questioni che poneva Elvira, e vorrei innanzitutto partire da quello che è il progetto del libro, perché io, ecco, forse prima di partire da quello che è il progetto del libro è bene che provi a collocare il mio discorso all'interno più complessivo di un dibattito, perché ecco, io ho sempre avuto difficoltà a definirmi femminista. E lo so, qualcuno dice, ma come, che ci fai qua adesso? No, perché la mia difficoltà a definirmi femminista non vuol dire che non mi sono mai interrogata rispetto a certe questioni, e che per questione, immagino, generazionale, negli anni in cui io mi politicizzavo, quindi nel corso degli anni 90, la prima metà degli anni 90, il femminismo con cui io mi sono confrontata era un femminismo col quale ho avuto difficoltà a entrare in relazione. Detto che poi quelli erano gli anni in cui occupavamo i centri sociali, in cui avevo l'esigenza di avere una relazione, che poi negli anni ho imparato a valutare diversamente, ma avevo l'esigenza di mantenere una relazione con i compagni, e quindi la dimensione separata del femminismo che all'inizio degli anni 90 veniva praticata all'interno dei centri sociali mi sembrava profondamente anacronistica. Detto che avevo capito senz'altro l'esigenza nel corso degli anni 60 e 70, soprattutto 70 in Italia, delle compagne di rompere rispetto all'internità di una situazione di movimento in cui erano comunque schiacciate su altre posizioni, ma noi all'inizio degli anni 80, degli anni 90, dopo, con la lunga coda degli anni 90, stavamo vivendo un'altra fase, e a me il femminismo sembrava anacronistico. Non sto dicendo che fosse giusta o sbagliata la mia posizione, però a me sembrava anacronistico. Le compagne femministe più grandi con le quali mi rapportavo volevano farmi da mamma, e io invece volevo fare la rivoluzionaria, non ero disposta, avevo ucciso mio padre e mia madre, ma arrivavano pure queste, no? E quindi devo dire che il rapporto col femminismo l'ho sempre avuto molto complicato. Sono arrivata a ragionare più nello specifico su questioni all'interno di questo dibattito per quella che è stato il mio percorso politico e, diciamo, di formazione intellettuale. Studiando le trasformazioni produttive e del lavoro, a un certo punto mi sono imbattuta nel genere, nella riproduzione, e lì ho cominciato a fare i conti in modo più sistematico con la questione. Dico questo perché quando Elvira ha detto, lei lo chiama un vademecum, forse potrebbe essere un grimaldello, io ho sempre molto timore, vado sempre come se camminassi sulle uova, sono sempre molto attenta e accorta quando discuto le questioni del femminismo. Quindi dare la pretesa a questo libretto, che è un libretto di chissà che tipo di pretesa, non me la sono sentita. Mi piace pensarlo come un esercizio di elaborazione collettiva che mi piacerebbe possa diventare uno strumento utile. Ecco, questa è un po' la prospettiva, perché il progetto che dà origine a questo libro, come accennava anche Elvira, è un corso di formazione politica che noi abbiamo pensato tra le compagne e i compagni a Bologna. Di fronte a un crescere di interesse per le questioni femministe, ci sembrava di ravvisare una certa debolezza nella produzione del discorso, nel senso che spesso non erano chiari i nodi delle questioni, le questioni in gioco, spesso sentivo riprodurre in modo poco informato alcune tematiche, e spesso c'erano delle questioni che rimanevano irrisolte. Per esempio la libreria dove è nato questo libro è gestita da un'associazione culturale che tiene dentro studenti universitari, quindi ventenni, e vecchi compagni dell'autonomia bolognese, sessantenni. Beh, le compagne più giovani avevano difficoltà per esempio a capire l'idea del separatismo che invece le compagne degli anni 70 portavano, e quelle vedevano il queer come la svendita delle lotte degli anni 70 che loro avevano fatto. Insomma, ognuno aveva le sue ragioni. L'esigenza di provare a trovare una dimensione di equilibrio fra queste cose è stata quello che ha mosso un po' la discussione. Per cui abbiamo provato a immaginare un discorso per tappe, provando a individuare alcune. Inevitabilmente abbiamo fatto esperienze che più di 5 incontri per un seminario non funzionano, quindi abbiamo dovuto stringere a 5 questioni, per cui tanta roba è rimasta fuori. Per esempio, ho incontrato un amico prima di venire qua, mi diceva: certo, però Carla Lonzi la dovevate tenere dentro. Certo che dovevamo tenere dentro Carla Lonzi, ma dovevamo tenere dentro Donna Haraway e dovevamo tenere dentro tante cose, però c'è stata un'esigenza di... poi a volte le scelte viaggiano anche su canali pratici, no? Può venire Tizio, non può venire Caio, per cui ci organizziamo così. Però abbiamo provato a dare l'idea di una genealogia di alcune delle questioni che... tornano oggi nel dibattito e rispetto alle quali ci sembrava opportuno creare un approfondimento. Detto che la produzione del sapere critico, io che ho lavorato nella formazione universitaria, adesso lavoro nella formazione scolastica, è una cosa che è stata completamente dismessa. E lo vedo anche mia figlia che fa le scuole elementari, il maestro gli dice: devi imparare a memoria. Quindi la produzione di capacità autonoma di pensiero è una cosa che dalle scuole elementari all'università, ne sto facendo esperienza trasversalmente in diversi momenti della mia vita, è stata completamente messa da parte. Non che, per carità, la mia generazione avesse avuto chissà quali opportunità di stimoli da questo punto di vista, ma insomma mi pare che stiamo facendo dei notevoli passi indietro. E c'è una domanda di stimoli, una domanda di interrogarsi in termini critici su alcune questioni che evidentemente non trova sbocco né nell'accademia né altrove. Quindi la pretesa che noi abbiamo avuto è stata quella di provare a fare un corso di formazione. Peraltro le esperienze degli anni passati ci avevano dimostrato quanto i percorsi di autoformazione fossero importanti, non tanto per la produzione di discorso che ne viene fuori, ma quanto per la produzione di soggettività, di momenti organizzativi e di pratiche. Dunque, abbiamo messo insieme, abbiamo individuato 5 questioni, abbiamo individuato 5 fra le figure più interessanti, almeno a nostro parere, del dibattito femminista, e abbiamo messo insieme questo corso con appunto la prospettiva: chi leggerà il libro vedrà che spesso le posizioni sono molto dissonanti fra di loro, con la prospettiva non di offrire una ricetta o di una soluzione, ma di aprire un piano di discussione. Io con alcune delle cose che sono scritte in questo libro non mi ritrovo per nulla. Però, nonostante questo, mi sembra che uno spazio di discussione intorno a queste questioni, soprattutto offrire punti di vista differenti, ma non per fare la formazione, il discorso anglosassone della neutralità dei saperi, non penso sia questo, i saperi non sono affatto neutrali. Ma mi piacerebbe lasciare allo spirito critico, alla capacità critica di ciascuno, il posizionarsi. Questo almeno è l'obiettivo che ci siamo dati, anche perché in un momento in cui viviamo pesantemente, viviamo una condizione dal punto di vista politico, esistenziale, di, lasciatemelo dire, non sconfitta, vogliamo dire, siamo un po' nelle retrovie, siamo un po' insomma affaticati, col fiato corto, ecco, mettiamoci in ascolto, senza, evitiamo di darci delle soluzioni facili. Quindi sì, diciamo, il discorso, la prospettiva di provare a costruire uno spazio per l'elaborazione del sapere critico è stata la premessa che poi ha portato a questo libro. Elvira nello specifico mi sollecitava sulla questione del lavoro gratuito. Appunto, come dicevo all'inizio, io sono arrivata al femminismo per vie traverse, sono arrivata al femminismo attraverso la critica marxista, la critica al marxismo più precisamente. E per questo mi sono occupata in questo libretto, che io continuo a chiamare libretto perché abbiate pazienza, non voglio passare guai, mi sono occupata in questo libretto del femminismo marxista, che provo a definire come femminismo marxista della rottura, perché faccio riferimento in particolare all'esperienza che nasce dentro la campagna internazionale salario al lavoro domestico e poi si sviluppa negli anni successivi, che è un tipo di riflessione pratica teorica allo stesso tempo, che parte da Marx per andare oltre Marx, che forza moltissimo le categorie marxiste, che rompe in modo decisivo col marxismo, ma che rilegge Marx, spinge Marx oltre se stesso. E uno dei punti di forza di questo di questa dimensione della critica femminista è stata negli anni 70 la critica al salario. All'interno della tradizione politica che si era sviluppata a partire dall'esperienza di Potere Operaio prima, dei Quaderni Rossi ancora prima e poi dell'autonomia, il tema del salario, della salarietà era un tema assolutamente centrale intorno a cui veniva sviluppata l'analisi politica e la lotta, perché ecco, uno degli insegnamenti che io ho fatto mio e che ho provato a mettere al lavoro anche in questo libretto è quello che la conoscenza viene dalla lotta. Mario Tronti disse questa cosa che mi rimase impressa, la conoscenza è legata alla lotta, e io credo che è soltanto nella misura in cui riusciamo a collocarci all'interno di quelli che sono gli spazi di contraddizione dai quali costruiamo conflitto, possiamo realmente assumere un punto di vista della conoscenza che ci permette realmente di fare un passo in avanti nella direzione di cambiare lo stato delle cose presenti, appunto come un orizzonte molto lontano, o ben chiaro che non lo cambiamo domani lo stato di cose presenti, ma insomma quello rimane la nostra direzione. E allora, tornando al discorso del salario, il femminismo marxista degli anni 70, a partire dall'Italia ma all'interno di una dimensione internazionale, mette profondamente in discussione la centralità del salario come elemento per definire la dimensione politica dei soggetti e lo spazio della conflittualità. Quello che loro dicono, a partire dal lavoro di Selma James, e anche qui sembra che oggi il movimento femminista in Italia e internazionale abbia scoperto la necessità di tenere insieme le questioni legate al genere insieme a quelle legate alla razza, eppure Selma James negli anni 50 e 53, se non sbaglio, aveva scritto un testo che era poi diventato un pezzo importante della riflessione del femminismo del salario al lavoro domestico, che poi a sua volta aveva interagito con le donne latine che negli Stati Uniti lottavano per il welfare, o con le donne afro-caraibiche che in Inghilterra lottavano per il riconoscimento di un sussidio. E allora Selma James, partendo anche da un punto di vista che era un punto di vista assolutamente non eurocentrico, oggi parlare della critica all'eurocentrismo è molto comune, ma negli anni 70 lo era senz'altro di meno. Eppure queste compagne, parlo di Maria Rosa Dalla Costa, Silvia Federici e le altre che hanno dato il via a questo percorso, assumevano questo punto di vista, che non è soltanto colui che sta all'interno dei rapporti salariali che può rompere, che può aprire spazi di conflitto, ma visto che la produzione di valore con le lotte si tende a mettere in discussione risiede anche fuori dai rapporti salariali e dal rapporto produttivo, dove con produttivo stiamo intendendo la produzione di fabbrica, il lavoro di fabbrica. Ecco, il lavoro del femminismo marxista della rottura, che riprende la critica, la riflessione sui non salariati di Selma James, è un elemento di assoluta novità per quel tempo, è un elemento di fortissima rottura con l'esperienza di potere operaio, all'interno del quale questa esperienza nasce, ma che poi rompe in un modo anche così anche violento, sì, possiamo dire anche violento, ma insomma, per dire che oggi quel discorso, dove produciamo, dunque il punto centrale era, si produce, lo dico molto in sintesi, si produce valore anche al di fuori del rapporto salariale. Oggi questa cosa è palese, ma non soltanto nel mondo dell'arte, in tutti gli ambiti del lavoro cognitivo, perché io che ho lavorato in università, chi lavora negli ambiti della comunicazione, in tutti gli ambiti della formazione, ci viene chiesto lavoro gratuito nella stessa misura in cui alle donne veniva chiesto lavoro domestico gratuito. Qual era la ricompensa? L'amore romantico, l'idea di essere una brava moglie, una brava madre. Allora, e il riconoscimento, un lavoro di networking, la costruzione di capitale sociale oggi. Però la produzione del valore rimane sempre, della ricchezza rimane sempre aliena al soggetto che è al di fuori del rapporto salariale. Ecco, io credo, e poi la smetto, che l'intuizione che il femminismo marxista e quindi la critica alla dimensione salariale del lavoro era stata mossa, secondo me è uno degli elementi che tornano di estrema attualità oggi quando vogliamo ragionare sulle trasformazioni produttive del presente. Allora, tocca a me, vai. La mia risposta. Allora, no, scherzi a parte. Io penso invece che non sia giusto che tu lo chiami soltanto vademecum questo libro, perché la produzione di saperi innanzitutto non segue le dinamiche neoliberali, diciamo le categorie neoliberali della quantità, della qualità, e quindi a me personalmente come donna, come femminista, anche un libello di 60 pagine può essere realmente, l'ho trovato, molto utile dal punto di vista degli strumenti che può dare a una donna, a una femminista, a un attivista del movimento Nuna di Meno, per diciamo, leggere quello che sta succedendo nell'attuale congiuntura globale, sia nel nostro paese, in Italia, che appunto altrove, no? E quindi innanzitutto io ringrazio te, ringrazio tutte le altre compagne che hanno permesso oggi di aprire questo spazio critico, che ovviamente, come dire, ne avevamo un po' bisogno, no? Di spazi, diciamo, di moltiplicare spazi critici di presa di parola, perché noi femministe ovviamente non ci facciamo bastare mai niente. E quindi in merito, diciamo, a quello che secondo me può essere fondamentale per portare avanti, no, la sfida del movimento femminista oggi, vorrei partire, prima di dire che cosa mi ha interessato di questo libello, ovviamente è un mio posizionamento, no? Ne parlavamo anche prima. Tu giustamente dicevi che nel libro, certo, si è fatta una genealogia, per quanto non esaustiva, ovviamente mai completa, delle traiettorie che il movimento femminista ha avuto negli ultimi anni della seconda ondata. Ebbene, io come posizionamento politico attingo dal femminismo della differenza, il grande mostro. Vorrei però precisare che ovviamente ho un posizionamento, che per così dire, eterodosso. Del femminismo della differenza, ovvero io sono l'anziana, tra l'altro, però come tu anche mettevi in luce prima, Anna, è importante saper integrare le varie teorie femministe con quello che manca, perché dobbiamo stare, diciamo, dobbiamo starci dentro tutte all'interno di un movimento femminista. E quindi io credo, a partire da questo mio posizionamento, che poi appunto sono una femminista della differenza eterodossa, affondo molto per formazione culturale nel femminismo intersezionale, di cui appunto anche il libro ci offre una ricostruzione molto esaustiva, e ovviamente sono aperta al femminismo queer, quindi, come dire, avendo 30 anni io mi sono ritrovata, per esempio mi hai fatto ricordare prima, in un altro tipo di disagio politico esistenziale, no? Io non sono una giovane, non ho 20 anni, non sono nata quindi in un contesto già di femminismo queer, non sono nemmeno una delle vecchie guardie del femminismo della differenza, mi sono ritrovata non solo a livello chiaramente di vita materiale, ma anche a livello di femminismo politico, in una terra di mezzo, dove non riesco a trovare il mio collocamento né di là né di qua. E alla fine ho preso la decisione di fare un mix, un missage, per quanto possibile, chiaramente, di vari approcci femministi. Quello che diciamo il punto principale del perché è utile un libro del genere oggi è perché rilancia, come dicevo prima, delle sfide che forse, e lo abbiamo detto anche un po' prima, il nostro movimento femminista rischia, diciamo, di non cogliere del tutto. E sono due in particolare, due sfide che in particolare vorrei, diciamo, evidenziare oggi. Ed è la sfida posta all'interno del femminismo della politica della relazione, che proviene direttamente dal femminismo della differenza, ovvero la politica della relazione come spazio di produzione di soggettività politiche e di saperi. E la seconda sfida che, su cui vorrei porre l'attenzione è quella della pratica politica femminista dello sciopero. Per quanto riguarda la pratica della relazione, ebbene, io ritengo che, per quanto molto distanti alcuni dei saggi tra di loro, ho rinvenuto comunque che si potesse tirare un filo di congiunzione. Tra tutti, tra il tuo saggio sul femminismo marxismo della rottura, con il saggio sul femminismo nero, sul femminismo queer di Zappino, sul femminismo materialista, insomma, di Carbagnoli, eccetera, non sto qui a elencarli tutti. E che cosa mi ha fatto pensare leggere questo libro? Mi ha fatto pensare al fatto che effettivamente un movimento femminista deve tenere dentro tutte, appunto, noi ci chiamiamo una di meno, no? Ovvero deve essere attraversato sia a livello teorico che a livello pratico, come poi, insomma, per fortuna ancora avviene, tutte le diverse declinazioni del femminismo e dei femminismi, senza esclusione, perché non è ovviamente sarebbe controproducente per la lotta politica stessa. Il rischio qual è? Il rischio è di depotenziare la politica della relazione, ma rischia anche di amputare la capacità, secondo me, analitica di lettura del reale. Giardini, per esempio, nel suo saggio ci ha ricordato che noi ancora oggi, molto attuale infatti il saggio di Giardini, assistiamo, e cito, al problema drammatico che in Italia ha interessato il rapporto tra le diverse generazioni femministe, ovvero un problema fatto di scomuniche, giudizi negativi, sempre assolutamente preventivi, esonero dell'esposizione alle relazioni, aspettative di ripetizione e somiglianza, incapacità, se non rifiuto, di prestarsi e dunque di trovare nuove e diverse posizioni per il potenziamento delle lotte femministe emergenti. Giardini quindi continua e dice che, insomma, ricorda che invece al contrario un pensiero femminista vivo, e questa è la sfida che noi, che io penso che noi dovremmo cogliere, continuare a cogliere, e che non può che deperire, no? Un pensiero vivo si deperisce per rigenerarsi, trovare altre nuove parole nelle contraddizioni proprie, nei conflitti che incontra anche all'interno dell'orizzonte femminista. Secondo me, quindi, questa attenzione all'eccedenza deve, ha urgenza di restare attuale e soprattutto viva, no? per spingere il movimento e in generale il pensiero critico femminista a un costante riposizionamento critico, dove il territorio della relazione deve restare una delle categorie critiche nel femminismo. E io credo che su questo, sulla politica della relazione, c'è molto di affine al femminismo intersezionale, ovviamente, dove appunto nel femminismo intersezionale il punto nodale non è la somma, la mera e semplice somma di tante lotte, ma è la messa in relazione, cioè il mantenere un posizionamenti diversi su istanze politiche diverse. Nominare i propri privilegi, nominare le proprie scale di oppressioni e sostituire alla sorellanza universale, tipica del un certo tipo di femminismo della differenza, e quindi anche ovviamente criticabile dal mio punto di vista, sostituire la solidarietà delle lotte. Questo secondo me è uno dei punti che può avvicinare femminismi che sembrano, o almeno sono stati tacciati, molto spesso come distanti. E, perché è importante la politica della relazione? Perché per il femminismo della differenza il soggetto politico si crea soltanto nella relazione, non esistono soggetti politici che successivamente entrano in relazione. Quindi la politicità dell'istanza di un soggetto può crearsi soltanto all'interno di una relazione. Non si può sfuggire alla relazione. Se si sfugge alla relazione con l'altra, anche appunto della diversa da sé, o che ha posizioni differenti, si perde il lato politico. E la differenza ovviamente qui è tra parlare e prendere parola, no? Ovvero riuscire realmente ad attivare un circuito discorsivo nella consapevolezza critica che il potere, diciamo, esercita all'interno degli scambi discorsivi, anche all'interno del femminismo. Sono secoli che all'interno del femminismo ci sono problemi di posizionamento di potere tra compagne. Ma questo è normale, è naturale, è strutturale. Il punto è un altro, il punto non è credere di non avere conflittualità interne a un movimento femminista. Il problema è non volerle affrontare e sciogliere, diciamo, le barriere, no? Non mi voglio dilungare. Il secondo punto, invece, come dicevo, che secondo me è molto per il quale è molto utile il libro di introduzione ai femminismi, perché dà moltissimi strumenti, e come dicevo riguarda la questione della pratica politica dello sciopero, che ovviamente sono diversi anni che, come movimento nulla di meno transnazionale, abbiamo adottato a partire dall'Argentina lo sciopero come pratica politica femminista. Tuttavia è vero anche che sarebbe riduttivo o diciamo forse miope assimilare una condizione politico-sociale latinoamericana, per esempio, con quella italiana. Perché dico questo? Dico questo perché forse gli strumenti che dà il libro sono in grado di fornirci degli ulteriori, diciamo, strumenti analitici, no? Teorico-pratici, per ragionare sia sul significato di sciopero che vogliamo dare come femministe alla pratica dello sciopero, ma anche forse alle sue modalità di applicazione. Perché dico questo? Dico questo perché, venendo dal sud, forse chiaramente si sarà capito almeno 2 ore fa, visto che diciamo, venendo dal sud, in particolare da Napoli, la questione dello sciopero negli ultimi anni mi ha posto di fronte a certi interrogativi che secondo me possiamo oggi discutere per vedere se riusciamo a costruire nuovi saperi al riguardo. Mi chiedo in particolare riguardo lo sciopero se non si tratta forse di capire di più o di lavorare di più sulla specificità, no, del nostro movimento italiano rispetto al Ni Una Menos Argentina, per esempio, e anche sulle specificità territoriali interne al piano nazionale. Per esempio le donne precarie, le donne, le lavoratrici domestiche, le operaie, le donne migranti, o insomma le italiane di origine immigrata e tante altre soggettività che noi vorremmo chiaramente come alleate all'interno del nostro movimento. Io sono sicura che abbiamo, mi ci metto anch'io come precaria, o forse disoccupata è meglio, delle analogie con le nostre sorelle argentine, purtuttavia però c'è qualcosa che poi non scatta, io vedo, nel contesto italiano rispetto all'America Latina. Quindi questo mi suggerisce che forse i dispositivi di potere, nel nostro caso specifico i dispositivi di potere razzisti, cioè razzismo e sessismo, si articolano specificatamente a seconda delle geografie. In questo, per esempio, mi ritorna in mente non Lucio Battisti, ma il concetto althusseriano di surdeterminazione, no? Che lui tra l'altro mutua dalla psicoanalisi. Il concetto, diciamo, per surdeterminazione, Althusser, rileggendo Marx, vuole intendere il fatto che un evento o un'oppressione, come nel nostro caso l'oppressione di genere, è il risultato di tante variabili, non solo sul piano strutturale ma anche sul piano della sovrastruttura, quindi culturale simbolico. Per Althusser, e questo, se non sbaglio, anche Garbagnoli lo riprende nel suo saggio, riprendendo il pensiero di Monique Wittig, la sovrastruttura e struttura non possono essere considerate come separate o in rapporto di subordinazione, perché così le condizioni materiali, così come le condizioni simbolico-culturali, contribuiscono a determinare una specificità territoriale di come dispositivi di potere, razzismo e sessismo nel nostro caso, interpellano o meno le soggettività di un corpo sociale. E su questo vorrei, diciamo, ricordare brevemente uno dei punti del manifesto Rivolta Femminile che la compagna aveva anche citato in apertura. Nel manifesto Rivolta Femminile, Lonzi, Accardi e Banotti scrivono: la parità di retribuzione è un nostro diritto, ma la nostra oppressione è un'altra cosa. Vuol dire che c'è qualcosa che, e ritorno alla questione dello sciopero, ci sarà qualcos'altro che non riesce ad innescarsi, forse nella specificità italiana o all'interno del nostro nazionale tra nord e sud, che possa interpellare le soggettività. Hai parlato di lavoro domestico prima, se non sbaglio. Ebbene, domande che mi vengono in mente, non solo a me chiaramente: il lavoro domestico full time è considerabile un ruolo o un lavoro, per esempio? Come scioperare dal lavoro d'amore, quindi appunto dicevi anche tu emozionale, quando per esempio i destinatari sono i nostri cari e i loro bisogni sono urgenti, sono vitali? Ce lo siamo chiesto anche negli anni passati in una di Meno Napoli, come fare per esempio durante lo sciopero dell'8 marzo a permettere la partecipazione alle donne immigrate che fanno il lavoro di cura domestica presso case di donne bianche, per esempio. E in questo, per esempio, il saggio sul femminismo nero è indicativo, proprio perché appunto mette in evidenza come il concetto stesso di famiglia, come luogo primario dell'oppressione patriarcale, cambi di significato tra una donna bianca e una donna nera. Io sono diventata femminista perché non mi sentivo oppressa a partire dalla mia famiglia. Per una donna nera non do per scontato che sia la stessa dinamica ad attivarsi. Già infatti la femminista afroamericana Belux, nel suo bellissimo libro Elogio del Margine, in un capitolo che ha chiamato Casa come sito di resistenza, ricordava che una donna nera che prestava servizio nelle case private di altre donne bianche, che non si poteva permettere di prendersi cura della propria famiglia e subiva una serie di oppressioni da parte dei dispositivi razzisti nella strada, nei luoghi di lavoro, nello spazio pubblico, ritornava a casa e quella casa, le relazioni all'interno di quella casa non erano luogo di oppressione per lei, era anzi un sito di resistenza dove si poteva rifugiare dagli attacchi, dall'oppressione del razzista. Sempre nel suo saggio, infatti, Maria ricorda che l'oppressione sessuale è una priorità per le donne bianche, non è detto che non lo è per le donne nere, perché insomma vivono un'altra esistenza, ovviamente. Questo era solo per dirne una. E poi la questione del salario, e poi chiudo perché tanto mi caccerete. Sulla questione del salario, per esempio, tu dicevi bene, no, che come riprendi nel tuo saggio, il salario, dice, è un vincolo di subordinazione che definisce la divisione sessuale internazionale del lavoro e lega il non salariato al salariato. Anche su questo io vorrei, ci siamo poste delle domande, per esempio negli scioperi passati, sulla questione delle lavoratrici, perché noi nel sud noi non lavoriamo, cioè io sono venuta a Milano perché sono disoccupata a Napoli, ma vi assicuro che lavoriamo tutto il giorno e non siamo retribuite. Sia perché facciamo lavori che per i quali non veniamo retribuite, sia perché nella specificità meridionale c'è tutto il settore del mercato del lavoro dell'informale che serve a darci sussistenza, ma che non è nemmeno contabilizzato all'interno del mercato del lavoro. Bastino delle, diciamo, tre dati per rendere l'idea. Secondo i dati ultimi del 2019, in Italia il 53,1% delle donne è occupata, in Campania lo è solo il 31,9%. In Emilia-Romagna, la tua regione, il 66,7% invece di donne lavorano, mentre in Lombardia il 65%. Cioè c'è un divario enorme, no? Tra un 31% campano e un 60% e passa per cento. E questo è effettivamente, insomma, ovviamente lo chiedo anche ad Elena, è una questione che va affrontata. E io quindi io mi fermerei qua, perché tanto insomma poi le altre questioni, insomma, magari dopo se c'è tempo. Quindi adesso devo rispondere. E qui no, ah no, è finita la, sì, insomma rispondete poi. No, allora, devo dire ti ringrazio molto per questa così interlocuzione, secondo me molto utile. Più che rispondere a delle cose, sono molto d'accordo con le cose che hai detto, quindi provo a fare un commento rispetto ad alcune suggestioni che mi sono venute. Allora, sicuramente sì, io diciamo all'inizio, quando tu sei partita parlando della politica della relazione, mi sono un po' stranita. Te hai detto tenere dentro tutte, io ho scritto chi? Tutte chi? Voglio sapere chi sono io e tutte te, che siamo due antagoniste femminili. Ecco, allora, poi quando mi hai detto della sorellanza, passare dalla sorellanza vuota alla solidarietà nelle lotte, mi sono trovata la risposta. Però diciamo, mi è sembrato molto utile il tuo riprendere il lavoro di Federici, perché credo che il lavoro di quel commento che riportavi dal testo di Federici, in cui lei dice che c'è diciamo che il sapere vivo tende a deteriorarsi, e quindi noi dobbiamo abbiamo il compito e forse anche l'obbligo, il dovere, no, di tenerlo vivo senza che si deteriori, quindi giocarlo nel presente, portarlo avanti. Ecco, mi sembrava che il tuo leggere la sorellanza come sorellanza tra le lotte, non sorellanza trasversale alle condizioni di vita che ciascuno viviamo, secondo me è un pezzo importante. Dico questo anche in un percorso di rivalutazione che non mi sarei mai aspettata di fare, ma che sto compiendo rispetto al pensiero della differenza, che effettivamente io ho percepito esattamente come quel passaggio di comunicazione poco privo di grande sensibilità, perché questa grande madre che ci perseguitava quando eravamo ragazzine era piuttosto indigesta. Però nello stesso tempo io credo e ho imparato a vedere in quel discorso un elemento molto importante che secondo me può stare dentro questo progetto di vivere nell'attualità il pensiero anche nella sua profondità genealogica. Cioè il fatto che il femminismo e la differenza ha, e questo viene molto bene dal saggio di Federica Giardini, che riflette dall'interno ma con un punto di vista critico, ha saputo evidenziare un elemento, diciamo, come possiamo dire, ha rovesciato il piano del ragionamento. Se fino ad allora, a partire dai dibattiti che si erano sviluppati in quegli anni, la figura della donna era sempre intesa come la donna, vero, assolutamente, subordinata, dominata, sfruttata, loro dicono basta, rovesciamo il piano del ragionamento. Io credo che questa postura concettuale, questo rovesciare il piano del discorso, sia un elemento forte che dovremmo provare a riprendere nel presente, provando a glissare quello che io ritengo, probabilmente te no, ma io ritengo un po' uno dei limiti di quel pensiero là. il discorso vero, verissimo, struttura e sovrastruttura non le vogliamo pensare separate, ci mancherebbe altro, però rimane una differenza tra il piano del discorso, il piano simbolico del discorso, il piano che agisce nei termini simbolici del discorso e il piano che agisce sulla condizione di materialità. E allora ecco, a me piacerebbe pensare un nuovo femminismo o una nuova pratica femminista, meglio forse, che sappia tenere insieme la dimensione di critica della vittimità, della condizione di debolezza, della subordinazione vera, oggettiva, che però non può essere il nostro punto di partenza, non può più essere il nostro punto di partenza, anche perché oggi è evidente che noi non viviamo le condizioni sociali e neanche politiche che vivevano le donne negli anni 70. Questo non sto dicendo che non ci sono situazioni nel mondo o in Italia dove ancora la pressione patriarcale sia forte in famiglia. Non sto dicendo questo, sono consapevole che ci siano delle situazioni di questo tipo. Però mi chiedo, sicuramente non è più la tendenza. No, te non hai il padre padrone che ti dice di non uscire con la minigonna a casa? Io non ce l'ho. Ce l'hai? No, sì, forse. No, non lo so, comunque diciamo, sono sicuramente cambiate le cose. Chiaro, sono cambiate. Quindi anche quella dimensione di, se vogliamo, come dire, quel punto di partenza cioè partire da un punto, oggi possiamo partire dalla nostra soggettività che ci parla di altro e provare dunque a giocare quel piano anche simbolico, ma soprattutto quel piano di potenza che il pensiero della differenza ci propone, ma non sul piano simbolico ma sul piano dei rapporti sociali di produzione. Forse è più semplice a dirsi che a farsi, immagino di sì, però ecco, diciamo che mi veniva nella tua ricerca di individuare dei punti in comune, secondo me questo è un punto sul quale, proprio nella misura in cui il pensiero, non soltanto il pensiero femminista come dice Federici, ma il pensiero è materia viva che vive dentro i processi, dentro le trasformazioni, dentro i soggetti che praticano quei processi e quelle trasformazioni, potrebbe essere un punto da pensare, ecco. E quindi rivedere, ripensare la politica della relazione, ma da un punto di vista che sappia calarsi dentro i rapporti di produzione. Sì. E quanto allo sciopero, allora sicuramente fare l'America Latina è un contesto sociale, politico profondamente differente da quello italiano. Sicuramente il tema della violenza è un tema trasversale, ma le pratiche e i discorsi che si stanno sviluppando in America Latina con una capacità di diffusione sul piano sociale che noi qui in Italia evidentemente non vediamo, segnano un passaggio differente. Mi pare di capire, adesso appunto vado un po' a naso, ma il processo di trasformazione sociale che si sta dando in America Latina è, dal punto di vista della critica femminista, è lo stesso che qui si è dato negli anni 60 e 70 come dimensione di trasversalità. Non lo so, la mia impressione, detto che per questione generazionale, per forme di vita, attraverso in modo saltuario le piazze, le assemblee di non una di meno, ma mi pare che ci sia una composizione molto militante, molto giovanile. Quindi le donne della mia età, le donne di 50 anni, se non hanno un percorso militante, non ci sono dentro non una di meno, o ci sono in piccola misura. Milano è particolare. Milano sarà particolare, è vero. Poi quelle questioni che lei diceva, sì, dal punto di vista territoriale ogni realtà è differente. Però ecco, mi pare di capire che quel movimento di trasformazione dal punto di vista delle relazioni sociali che si dà in America Latina, non so se qua si dà negli stessi termini. Quindi anche le pratiche, anche lo sciopero, detto che io sono profondamente d'accordo con te, scioperare dalla cura della dimensione affettiva, bisogna capire come farlo, e questo è un nodo che neanche salario al lavoro domestico ha mai di fatto risolto, perché quella è stata una parola d'ordine evocativa che diceva alle donne: rompete il vostro ruolo in famiglia. Ma poi lo sciopero effettivo, il rifiuto effettivo del lavoro domestico, è stato più una rivendicazione, no? Più uno slogan potente che ha dato una dimensione di immaginario simbolico, anche quello che ha dato una dimensione di immaginario, ma che effettivamente poi è stato praticato fino a un certo punto. Io lo scrivo nel libro: l'unico esempio di sciopero della cura che a mia memoria ho conosciuto, è stato lo sciopero dei Latinos negli Stati Uniti, un Dias senza migrantes, non scuole chiuse, lavori chiusi, catene umane intorno ai centri commerciali. Allora, io mi trovavo casualmente negli Stati Uniti nel 2006, il primo maggio del 2006, peraltro il primo maggio negli Stati Uniti non è festa del lavoro come in Italia, e mentre voi facevate la May Day, noi eravamo intrappolati in questo fiume Broadway, è una strada larga che attraversa tutta Manhattan, ma era tutta la città, era bloccata. C'erano svariate centinaia di migliaia di migranti latinos e non solo in piazza, e quello è stato veramente lo sciopero della cura. Oggi, qui in Italia, nelle nostre latitudini, praticare lo sciopero della cura, praticare lo sciopero della riproduzione, mi pare che abbia innanzitutto bisogno di individuare chi è il nemico, qual è lo spazio di produzione di valore che noi con quello sciopero intendiamo mettere in discussione, perché oggi, che ne dica il femminismo materialista francese, che però d'altra parte ragionava e rifletteva negli anni 60 e 70, oggi il mio nemico di classe non è l'uomo che vive in casa con me, non è necessariamente lui. E allora capire qual è il referente del nostro sciopero, qual è l'elemento che noi rispetto al quale dobbiamo andare a interrompere lo spazio della valorizzazione, perché noi scioperiamo per interrompere lo spazio della valorizzazione capitalistica, non per andare in piazza. In piazza ci andiamo volentieri, ci piace, ma non è sciopero, è un'altra cosa. Ecco, allora capire qual è lo spazio di valorizzazione che dobbiamo andare a interrompere, secondo me è il pezzo di ragionamento che dobbiamo ancora aggiungere alla pratica dello sciopero, che rimane una grande e bella evocazione, ma mi pare non stringa, e spero che le compagne più interne ai percorsi di Luna di Meno mi smentiscano. Sì. Va bene, ciao a tutte e tutti e tutto, io sono Elena e vabbè, faccio parte del cantiere e della rete di Non Una di Meno di Milano. Non sto portando un intervento ufficiale, sono contenta che qua ci siano tante altre compagne che spero anche di cuore che poi prendano la parola, però sicuramente vorrei, seguendo una pratica femminista, partire da me e dalla mia esperienza di lotta per provare a entrare un attimo nel merito delle questioni che sono appena state sollevate e che questo libro propone. Prima di tutto un grazie per il titolo, nel senso femminismi, questo è fondamentale, non solo perché esistono tante correnti di femminismo, non solo perché esistono tante provenienze e nel mondo globale delle migrazioni questi femminismi li abbiamo tutti con una vicinanza veramente incredibile che non può essere taciuta, e questo come tensione a Milano stiamo cercando di perseguirlo, ma anche perché Non Una di Meno si dice un movimento transfemminista. Quel trans significa tante cose, significa sicuramente un femminismo che non è rivolto a donne biologicamente tali, ma è un femminismo includente per tutte quelle soggettività LGBTQIA+, con tutta la potenza che ha quel più nell'indicare le infinite forme possibili del nostro desiderio e della nostra possibilità di espressione delle relazioni e quindi anche di costruzione delle alleanze, ma anche trans nel senso di molteplice, plurale, mai fermo, mai statico, e come femminismo della trasformazione in qualche modo, che si oppone alle rappresentazioni statiche e che fanno del dispositivo di genere uno dei principali strumenti di disciplinamento della società in termini binari, che fosse il maschio-femmina con cui si scontravano negli anni fino agli anni 70, o che sia l'eterosessualità come regola di normatività, oggi anche estendendo con una certa logica di pink e rainbow washing, no? Il dispositivo del genere, molto oltre, non molto in verità, oltre le etichette tradizionali. Ecco, questo perché? Perché il pensiero queer, di cui noi non possiamo dirci come collettività, no? Delle delle teoriche in alcun modo, ma di cui stiamo assolutamente prendendo le influenze e cerchiamo di farne un elemento di elaborazione. A Milano è appena nata all'interno di Non Una di Meno la tavola queer, che fa parte appunto attivamente dell'assemblea, ma come spazio di riflessione e autoformazione anche in questo senso. E allora che cos'è il queer se non un'esplosione dei punti di vista sul soggetto, un'esplosione dei punti di vista sulla soggettivazione che si costruisce nelle lotte e quindi sulle lotte. Non è la pretesa di una nuova elaborazione teorica universale, no? Ma il pensiero della trasformazione e della frammentazione. E se questa frammentazione può essere rivoluzionaria, allo stesso tempo ci pone l'interrogativo delle alleanze, ci pone l'interrogativo di come stare insieme. E è un po' quello che secondo me si sta cercando di fare su più fronti. Leggendo un po' appunto questo libro, in particolare alcune citazioni contenute nel saggio che scrive Marie, tra l'altro compagna dell'Assemblea di Non Una di Meno Milano, partendo dal femminismo black, mi veniva in mente un intervento fatto e ascoltato forse nella primissima Assemblea Nazionale di Non Una di Meno, che diceva: siamo la minoranza meno minoranza della storia dell'umanità. Per questo possiamo essere catalizzatore di ogni liberazione. Ecco, per me questa frase è sempre stata molto forte e secondo me al tempo esprimeva una tensione, un orizzonte del desiderio che ha animato Non Una di Meno, ma non soltanto in questi anni. Ormai siamo al quarto anno, quindi sicuramente non è più un movimento che è retto da quello stesso entusiasmo spontaneo e genuino che raccoglieva le inflessioni globali in maniera un po' critica, no? È sicuramente in corso un processo in qualche forma costituente nel senso di movimento e autonomo del termine. Sicuramente appunto in quattro anni moltissime questioni si sono presentate. Quello che anch'io ho apprezzato di più di questo libro è che cerca di costruire, almeno io le ho lette in questi termini, delle genealogie, dei dibattiti di movimento e delle lotte che ci consegnano oggi dei punti di riflessione e non un anno zero. Sotto tanti punti di vista noi ci scontriamo su tematiche che sono tuttora aperte, presenti in questo libro. Sullo sciopero già è stato detto, no? È già stato detto molto. Noi ne stiamo discutendo moltissimo in tutta Italia proprio a partire da questo 8 marzo, a partire da un dato apparentemente molto stupido che ci consegna il calendario gregoriano. L'8 marzo quest'anno sarà di domenica. Sembra una banalità, ma non lo è, perché questo porta immediatamente alla luce tutti i nodi al pettine. Cosa significa costruire uno sciopero riproduttivo e produttivo? E la cosa interessante è che i nodi vengono accentuati proprio perché Milano e Napoli sono due città profondamente diverse dal punto di vista dell'organizzazione della produzione, dal punto di vista degli assemblaggi che il potere usa oggi per estrarre valore e profitto dalle nostre vite e dal nostro lavoro. E non solo Milano e Napoli. Torino è una città ancora diversa dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro. Vorrei azzardare, ma forse è la città con gli strascichi più fordisti, certo, ancora, certo. No? A Milano a noi piace dire che siamo nella città dell'estrattivismo del tempo. È così. Siamo nella città dell'estrattivismo del tempo, degli affetti, forse una di quelle città in cui insomma il sindaco Sala diceva andassero ad Avellino a chiudere la domenica, no? Questo è razzismo puro ed è un colonialismo interno che la nostra discussione sullo sciopero deve riuscire a sconfiggere. Però è vero che nella città di Milano la femminilizzazione del lavoro è ormai qualcosa che non solo è scontato, ma investe talmente tanto ogni soggettività e ogni aspetto della vita da non poter essere in alcun modo bypassata quando si ragiona sullo sciopero. Le argentine che si citavano prima sullo sciopero, secondo me, propongono una suggestione interessante. Il primo 8 marzo era chiamato con la parola d'ordine, molto simile a quella dei Chicanos, che era: se le nostre vite non valgono, allora noi non produciamo. Questo slogan è potentissimo dal punto di vista filosofico e pratico. Significa dismettere una distinzione ancora una volta dualistica, quindi comunque figlia di un'impostazione di pensiero anche marxista, se parliamo di andare oltre Marx, ma perché Marx è figlio del suo mondo e quindi di un pensiero che in realtà è profondamente radicato nell'Occidente dualista tra produzione e riproduzione. Qua il problema è che la vita intera è messa a profitto ed è la vita intera ad essere sfruttata. Il lavoro delle donne, in questo senso ormai un lavoro femminilizzato, nel suo senso meno biologico possibile, è costantemente espropriato, no? Federici, di cui si parla molto nel primo brano, spiega proprio come il peccato di Marx sia stato individuare l'accumulazione originaria in uno sfruttamento unicamente legato, per esempio, ad alcuni avvenimenti storici come la scoperta dell'America a monte della rivoluzione industriale, quando invece si spiega benissimo che i corpi delle donne, e in questo l'ecofemminismo oggi è particolarmente importante perché ci insegna il corpo della terra, smettendo anche un dualismo uomo-natura che di nuovo impregna il nostro modo di vedere le cose. Ecco, allora, ovviamente mi sono persa, l'ecofemminismo ci insegna anche questo, che appunto il... No, scusate, mi sono persa completamente. Sì, no, scusate, stavo esagerando con i collegamenti. Esatto. È lo sfruttamento continuo, giorno dopo giorno, dei corpi delle donne, dei corpi più in generale e delle risorse, che viene perpetuato in continuazione ad essere l'accumulazione originaria, che si perpetua perennemente. Quindi nel superare Marx, questo dobbiamo imparare, importante, con Federici. Che il nostro corpo, le nostre vite, sono il campo di battaglia permanente dell'accumulazione originaria e dell'estrazione di profitto capitalista, patriarcale, razzista, coloniale del sistema in cui viviamo. Quindi se le nostre vite non valgono, noi scioperiamo a quella potenza particolare. E la domanda è come noi in Italia siamo in grado di superare quel dualismo produzione-riproduzione, non facendo finta che non esista, ma costruendo una risposta in grado di essere catalizzatrice di soggettività e lotte diversamente esposte allo sfruttamento, diversamente esposte all'estrazione di profitto. Il saggio di Marie sul femminismo black parla molto bene di intersezionalità. Non una di meno, è un movimento transfemminista e intersezionale. Mi ha molto colpito in questo testo una critica allo sbiancamento dell'intersezionalità. Cosa fa notare Marie? Nel momento in cui l'intersezionalità diventa una parola un po' di moda, che viene usata anche nelle aule universitarie, magari da un professore uomo, bianco, sulla quarantina, sposato, con due figli, che dice: io sono intersezionale, allora attenzione, perché questo è uno sbiancamento ed è un depotenziamento di uno strumento concettuale importante che nasce situato, cioè dal punto di vista di chi si trova esattamente nell'asse, nel punto di intersezione fra gli assi che definiscono la distanza fra l'accesso al privilegio e l'esposizione all'oppressione più svantaggiato. E il fatto che un concetto nasca situato è qualcosa di importante da preservare. Quindi, come noi riusciamo a costruire un movimento intersezionale senza cadere nello stesso vizio? È una domanda importante. E sapendo che gli assi dell'intersezionalità sono molti e diversi. E quindi, fondamentalmente, la domanda è proprio un po' questa che cerchiamo di farci. Come partiamo da noi? Come mettiamo in discussione i privilegi? A partire da quello dello sciopero? Molto spesso è facile. Noi stesse siamo sempre di più impossibilitate dall'accedere a un lavoro tutelato, per esempio, no? In altri casi è più difficile. In altri casi è più difficile, perché naturalmente quando diciamo vorremmo delle composizioni più meticce all'interno delle nostre assemblee come nostre alleate, lo esprimiamo purtroppo ancora spesso in una dimensione di desiderio. Però anche questo mi riporta al fatto che i saperi si costruiscono nelle lotte, e tutto il saggio che ragiona a partire dal dispositivo della cittadinanza come dispositivo per riflettere intorno a una piccola differenza fra estensione del privilegio al posto che ampliamento dei diritti è centrale a questo riguardo. Perché infatti spesso, se abbassiamo l'età media, andiamo a vedere la composizione dei cortei studenteschi di non una di meno dell'8 marzo, che a Milano si sono visti tutti gli anni, oltre a quello cittadino, allora vediamo una piazza infinitamente più meticcia, che riflette immediatamente un dato generazionale. E allora, quando anni fa, io mi ricordo che politicamente dicevamo siamo meticci, poi ci guardavamo intorno, eravamo tutte bianchi, tranne due adottati dalle Mauritius, però lo dicevamo in tendenza, e oggi effettivamente non è possibile prescindere da questo dato reale di composizione sociale. Allora spesso nelle scuole, quando facciamo assemblee, riscontriamo che l'attenzione si va sulla violenza sessuale e tutto quanto, ma va tantissimo sul tema dei ruoli di genere. Viene da dire, in tendenza siamo anche tutti queer, in tendenza siamo anche queer? Forse sì, e questa è una scommessa interessante, che tra l'altro ci pone anche il bisogno, almeno a Milano, di sapere che esistono femminismi della differenza e femminismi queer, teorie diverse, che trovano sicuramente un dato generazionale, non sempre ovviamente, senza nessuna coincidenza per forza, ma storie diverse, tempi diversi, che nelle piazze, almeno a Milano, si trovano assolutamente a convivere molto spesso. E questo naturalmente rende interessante. Mi ha stupito che questo libro venga anche dagli atti di un laboratorio fatto in università a Bologna. Di un laboratorio fatto a Bologna, perché proprio in questi giorni un laboratorio in università a Milano ha proprio messo in discussione prospettive di femminismo della differenza con prospettive di femminismo queer. Prima lezione Cavarero, seconda lezione Bernini. E mi sembrava una cosa assolutamente pazzesca, se non che poi ho trovato questo. E ho capito che allora c'è una tensione su questo punto, che forse è possibile, e a me sembra interessante, perché anch'io il mio primo corteo di non una di meno, no, il mio primo corteo antisessista della vita l'ho fatto molto prima di non una di meno, ero molto piccola, e i miei coetanei di 16 anni sono stati scacciati dal corteo da alcune organizzatrici che li tacciavano di essere potenziali stupratori. Naturalmente questo a me mi aveva messo abbastanza in crisi rispetto al mio essere femminista, cosa che ho superato all'interno di non una di meno. Primo, perché appunto si impara nelle lotte, la soggettivazione avviene nelle lotte, ma soprattutto perché secondo me all'interno di non una di meno, un movimento transfemminista che cerca di mettere in discussione il proprio privilegio, emerge con forza il nodo che Judith Butler tematizza della vulnerabilità. E qua vado a chiudere, ma la ragione per cui io alla fine mi sono riscoperta femminista è spiegabile in un modo molto semplice, che è quello che proviamo a proporre nelle scuole con enorme successo di solito, perché quando vai in una scuola e dici secondo voi c'è ancora bisogno di essere femministe, io provo sempre a proporre questa riflessione, ma quando cammini per strada ce l'avete presente quella sensazione, cioè quel bisogno di attenzione ambientale che dovete porre? Quando passa una macchina dietro di voi togliete una cuffietta? Se dopo una certa ora andate in giro senza una delle due cuffiette? Se salite sull'ultima metro decidete dove sedervi, non in base a dov'è il posto più pulito, ma dove vi sentite più a vostro agio? Ecco, quell'attenzione sessualmente orientata e definisce esattamente il concetto di vulnerabilità. E nelle scuole, a qualsiasi età, tutte le facce annuiscono, sempre. Perché la vulnerabilità è un'esperienza che si fa, che si sul proprio corpo, che si vive, e che non è e che può essere il grimaldello di quelle alleanze possibili. Basta, Questo a me sembra già tanto, ho toccato vari temi, ne toccherei anche molti di più, me li risparmio e vorrei buttarli nel calderone della discussione. Sì, infatti io ringrazio Elena, anche ringrazio. Ringrazio anche Leonora e sono d'accordo, come ero d'accordo con lei, sono d'accordo con molte delle cose che dicevi tu. Ecco, rifletterei su quest'ultimo punto della vulnerabilità, perché in qualche modo mi richiama quello che dicevo prima, quello che mi ha che ho imparato nel tempo ad apprezzare del pensiero della differenza, che invece prima vedevo come il fumo negli occhi. E, diciamo, c'è un pezzo in cui Federici nel suo... Giardini, grazie. Nel suo saggio, dunque non lo trovo. Non lo trovo, ma in realtà lei diceva che, diciamo, a partire dalla rivendicazione della necessità di separarsi. Loro dicevano: noi dobbiamo separarsi perché la relazione dentro cui stiamo è la relazione che ci pone in condizioni di subalternità. Ora, detto che ce lo siamo già detto, oggi la separatezza va letta nel contesto reale, quindi sicuramente non può essere lo stesso discorso che si faceva allora, quindi non sto parlando di percorsi appunto separati, ma mi pare che dovremmo un po' imparare, detto che la vulnerabilità, se sei donna la capisci, se non sei donna non c'è verso, te gliela spieghi e non la capiscono. Certo, c'è il mito. Non la capiscono, non c'è verso, ci ho provato più tempo, però secondo me dovremmo trovare le parole per dirlo con Cigarini, che non avrei mai immaginato di citare nella mia vita, eppure ne può capitare tutto, sono aperta alle esperienze più diverse, ma appunto trovare le parole per dire che questa vulnerabilità, trovare il modo per dire che questa vulnerabilità deve essere il nostro punto di forza. Dobbiamo imparare a rovesciare questa dimensione di vittimità, di debolezza. È vero il dato da cui partiamo, ma non possiamo continuare a dircelo, perché io adesso sto insegnando in una scuola di periferia, che è una scuola riformatorio, e se io parlo con le poche ragazze che frequentano questa scuola, il tema della vulnerabilità, sì, vanno in giro con una cuffietta sì, una cuffietta no la sera, però non è che proprio lo tematizzano così. Loro magari sono più disposte a tematizzare il fatto che vanno in giro da sole la notte. E allora impariamo a rovesciare il nostro punto di vista, impariamo a far nostro quel discorso che insiste sulla nostra potenza, senza però arrivare agli estremi che noi siamo potenti e tutto il resto non va bene. Però ecco, secondo me battere ancora sulla dimensione della debolezza e della vulnerabilità non dà conto delle soggettività delle donne, che sono sempre meno vulnerabili, che hanno imparato a soggettivarsi. Non abbiamo risolto i problemi. Anch'io vado in giro con una cuffietta sì, da quando avevo 15 anni. Lo fai per forza, sali nella metro e capisci dove sederti, ovvio. Però facciamone un punto di forza, non ci fermiamo là. E poi una brevissima commento sull'intersezionalità, che io spesso, per come viene declinata nel dibattito più complessivo, più generale, con i termini più semplici in cui viene fatto, senza andare poi a vedere chi realmente ragiona su queste cose, sembra davvero la sommatoria delle differenze. Io ho un'amica che mi dice: ma come? Allora tu devi mettere la religione, la nazionalità, la razza, il genere. Ma chi se ne frega? Siamo assolutamente tutti attraversati da differenze specifiche, perché io sono calabrese e non emiliana, e sono donna, e ho 50 anni, e ho pure una figlia, eccetera, eccetera. E quindi sono tutte le sfighe che mi portano dietro, però quando io vado a ragionare su quello che è il piano rispetto al quale io devo intervenire se voglio trasformare la mia vita, vado a vedere dove sono collocata rispetto alla società. E allora il discorso dell'intersezionalità, che è stato introdotto nel dibattito accademico negli anni 90, lasciatemelo dire, in pieno delirio postmoderno, dove era il proliferare della differenza bello, piccola, più è sfumata e più ci piace, e non dà conto invece del fatto che le questioni del genere e della razza, come il femminismo black ci dice, come Selma James che citavo prima ci dice, come le stesse materialiste francesi negli anni 70 in Francia avevano individuato, il tema del genere e della razza nella relazione con i rapporti di produzione e con il capitalismo è un tema che è sempre esistito. E allora partiamo da quello invece di insistere su una proliferazione vuota di differenze. Il discorso che Marie fa sullo sbiancamento e l'intersezionalità va proprio in questa direzione, perché noi nel corso di quel seminario abbiamo discusso molto su questa cosa e credo che invece di prendere delle parole d'ordine e riprodurle in modo acritico dovremmo provare a ragionare sulle cose. Grazie. Allora, grazie. È complesso, insomma, inserirsi e riaffrontare o comunque districare alcuni nodi delle questioni. Io volevo approfittare di questo momento perché comunque abbiamo anche preparato una serie di altri contributi che in un certo senso rendono produttivo il lavoro sul simbolico e quindi anche confrontarci con invece la vostra prospettiva militante, politica, eccetera, proprio riferito a questa duplice accezione del simbolico che in che termini può aprire degli spazi di agibilità e di immaginazione politica. Penso alla, per esempio, sia nel saggio sul femminismo materialista, l'azione con la corona del 1970, la donna del Militegnato, oppure nel caso del contesto appunto milanese, la manifestazione, il corteo dell'8 marzo con l'azione potentissima, potremmo anche dire la potenza creativa delle lotte, della appunto vernice rosa sulla statua di Montanelli che in modo, cioè quando noi per esempio e nei contributi che abbiamo pensato appunto per e completare la serata, che in parte si sviluppano qui con un progetto diciamo performativo rituale e poi nella saletta dell'archivio Primo Moroni con altri interventi invece più di natura storica, archivistica, disegnativa, cioè tendono un po' più a quella dimensione in cui cioè non c'è la produzione di un oggetto oppure di una base ideologica contrapposta a quella materiale dell'oppressione e dello sfruttamento, ma è proprio una forma di immaginazione politica e di reinventare nuovi strumenti di risoggettivazione attraverso un altro tipo di codici, saperi. E quindi sì, volevamo un po' affrontare questa parte, capire anche in che termini, cioè appunto la vernice rosa di appunto su Montanelli ha scoperchiato e toccato un punto nevralgico risolto nel discorso pubblico italiano, cioè quindi apparentemente cioè, era diversa da una forma politica di lotta come lo sciopero, come altre cose, però su un piano simbolico ha diciamo avuto un effetto insomma anche dirompente per tanti aspetti. Noi per esempio come posizione ci occupiamo di questo, quindi ci piaceva un attimo confrontarci anche da questo punto di vista per capire in che termini l'accezione del simbolico o comunque diciamo questa ipotesi di possibile denaturalizzazione di relazioni tra genere, dispositivi di visualità, potere, classe, razza, cioè tutto quello che è stato un po' messo in e anche con un modo un po' ironico d'approccio. Quindi proviamo magari volevamo raccontare. Ci dobbiamo spostare? No, in realtà diciamo volevamo un attimo partire da qui con appunto Flavia Scirè e Roberta Ricci. Flavia ha pensato una performance, quindi ve la voleva un attimo raccontare. Poi in realtà ci sono anche riflessioni insomma di Elisa Vedovelli, Francesco Tola, Andrea Bassano. Avevamo preparato un po' un dibattito per qua ci dobbiamo spostare. Per ora stiamo qui, okay. Un attimo, vi okay. Lascio. Grazie. Allora, qui abbiamo deciso di portare un'opera che fa parte di una collettiva eseguita un po' di mesi fa, Spazio X, è uno spazio di attivismo culturale e che si mischia chiaramente con le nostre pratiche che sono le pratiche artistiche. Quest'opera in particolar modo è incantesimo antifascista e riprende molto il simbolismo anche delle lotte recenti di Non Una di Meno, e Flavia Cirè chiaramente voleva riproporre quello che è il suo concetto facendolo in una maniera molto molto semplice ma efficace. Adesso magari fa la performance e poi ne possiamo parlare, così vi spiego la semplicità da dove è partita chiaramente. In realtà, più che una performance, quello che mi avete visto fare è un piccolo rituale. Un piccolo rituale che riprende, soprattutto nell'estetica, ma anche nella forma, quelle che sono una tradizione esoterica, anche tipica italiana, che alcune branche del femminismo stanno riscoprendo come empowerment della donna, cioè quel ruolo di strega che ci è stato affibbiato, ce lo riprendiamo in una maniera anche veramente molto semplice e molto simbolica. L'azione in questo caso è quella di bruciare dei frammenti di manifesti che sono stati raccolti dai muri di Verona durante il Family Day. Manifesti che descrivevano una certa idea di donna, sempre descritta da un certo tipo di uomo. Ora, la semplice azione di andare a distruggere il frammento di manifesto in un'azione rituale ci porta a prendere coscienza di quello che potrebbe essere il nostro ruolo nell'uscire da questi ruoli imposti. L'ultimo passaggio, quello del dipingersi il volto, sta a chiarire il fatto che tutti i rituali del mondo non ci consegneranno magicamente la libertà, ma sta a noi poi metterci la faccia e andare con l'azione quotidiana a scardinare questi meccanismi. Un incantesimo al contrario. No, in realtà poi se ci sono ovviamente anche delle domande da parte del pubblico, se volete, vedo un po' che... Un po' più che altro è una dimensione nella quale si rifà molto all'azione. Noi veniamo da un mondo artistico, anche accademico, soprattutto nel quale l'unica cosa che alla fine poi manca... Eccoci. Dicevo che appunto noi proveniamo dal mondo artistico, accademico, dove una delle più grandi carenze, a mio avviso, a parte quella un po' gerarchica, è la formalizzazione, la mancanza di formalizzazione che è, in un certo senso blocca anche quello che è il pensiero creativo. Si fa molto brainstorming, si fanno molte... chiacchiere, passatemi il termine, no? Ci sono tante parole spese, allora invece magari bisogna ritornare più a un'economia, un'ecologia anche del linguaggio, delle parole, per arrivare forse a un'azione, quindi rendere magari l'azione molto più efficace di tante parole, no? E come farlo? Nell'arte è un po' difficile, soprattutto nell'arte contemporanea, dove oggi il linguaggio è sempre più chiuso, un po' ermetico, non arriva a tutti, non arriva al pubblico anche medio che si interessa semplicemente del contemporaneo, cioè di che cosa sta succedendo. E gli artisti di arte contemporanea non fanno nient'altro che, come dire, presentare il presente, la propria vita attraverso la loro arte, attraverso la forma di comunicazione, il loro linguaggio. E questo in un certo senso di Flavia era io sono nella lotta, io sono presente, io sono qui, e la mia, quello che voglio restituire agli altri in un contesto artistico è rimandarli al pensiero politico dell'azione, rimandarli a qualcosa che sta succedendo, è qui, è presente, sta succedendo adesso. Allora, come si diceva prima, abbattere quelli che sono i limiti anche della negatività che si trascina, la fragilità, passatemi il termine, che gira intorno alla figura della donna e che lo è in un certo senso, no? Quanto più riprendersi quella fragilità, riprendersi quel soggetto vittima e trasformare quella forza, quel dolore costante in forza, quindi in attività, in azione. E per farlo lo deve fare, quindi la costanza, la quotidianità, come diciamo noi, non lottiamo solo l'8 marzo, no? Noi lottiamo tutti i giorni, ma perché respiriamo effettivamente, no? Siamo catapultati in una società nella quale viviamo, in una società nella quale lottiamo tutti i giorni per la nostra esistenza, perché il nostro corpo ha uno spazio ben preciso, in un certo senso, e fa i conti con le relazioni con gli altri. E allora anche nell'arte, tutto ciò che un po' rimane teorico, forse è il caso di, a nostro avviso, un'arte contemporanea, un po' più di attivismo, è il caso di riabbassarlo, ridurlo molto di linguaggio, come un'ecologia che può far sì che penetri ovunque e si capisca bene. Allora, anche riprendendo la cosiddetta tradizione, in un certo senso, che cos'è la tradizione italiana? Però ripercorrendo un pochino dal sud al nord, la magia, in un certo senso, c'è sempre nella cultura, anche in quella del paesino più sperduto della Valle d'Aosta a quello più sperduto della Sicilia, c'è sempre. Allora, questo è qualcosa che si capisce perché arriva dal popolo, arriva dalla terra, arriva dalla natura, è basico. Allora, come trasformare questo linguaggio molto basico in qualcosa di molto più potente, molto più politico, e quindi trasformarlo in azione attraverso chiaramente l'arte contemporanea e il linguaggio dell'arte. Ci sono domande, interventi, quindi poi l'invito è per tutti a fare il gesto rituale con i segni. Ci sono domande, riflessioni? Perché non so se ci arriva. Ok, ciao. Ok, io sono una femminista, ma mi sono trovata in realtà molto in difficoltà ultimamente, ok, a livello per fare militanza, nel senso che sono, da quando io ho iniziato, da prima dell'università, ho scritto una tesi femminista, ho sia triennale che magistrale, insomma, ho fatto degli studi, ma mi sono trovata in realtà a sentirmi di allontanarmi, ma per una cosa soltanto, una mancanza di comunicazione con chi di intellettualismi non ne può ascoltare. Nel senso che io oggi mi sono ritrovata a... mi sono posta una grandissima domanda, ed è stato perché è stata con il mio fidanzato. Lui è molto più femminista di me, nel senso che lui mi dice di non accettare, mi ha aiutata a farmi uscire da determinate situazioni, tipo sfruttamenti da un punto di vista estetico, da chi? Dai miei datori di lavoro, da ovviamente chi mi ha fatto colloqui, chi banalmente sono miei amici, però deve sempre esserci. Il mio primo lavoro è stato fare la modella, per dire, ok, fu un grandissimo sfruttamento, ma all'epoca io non avevo né i mezzi, vengo da una famiglia di una struttura estremamente patriarcale, ok? Nonostante i miei genitori siano degli pseudo hippie, ok, cioè c'è questa contraddizione, la mia storia è ricca di contraddizioni, a dire il vero. E io, nonostante abbia fatto anni di studio, mi ritrovavo a non dire niente quando ero al lavoro, quando i clienti mi dicevano: "Hai gli occhiali nuovi, mamma mia, cosa non ti farei?" Cosa? Io non dicevo niente, ok? Ho lavorato 5 anni in un posto così, estremamente sfruttata, ok? Ho subito tantissime violenze e io non mi sono sentita assolutamente aiutata e appoggiata dalla militanza contemporanea, o almeno, ma non soltanto per me, ma perché appunto vedo che c'è un grandissimo problema, per esempio in Brianza, di un gravissimo passaggio di informazioni. In realtà io vi sto dicendo questo per dire cerchiamo di ampliare, ok, la nostra visione anche chi non può trovare i mezzi per comunicare, perché io trovo che tutto questo sia giusto, però bisogna partire, andare un po' più indietro e guardare effettivamente lo stato delle cose, che non, effettivamente non abbiamo ancora raggiunto determinate, cioè io ho 26 anni e comunque sono stata cresciuta, devi imparare a lavare le mutande perché sennò non troverai mai un marito, ok? E al fatto che nessuno, io sono la prima laureata della mia famiglia, nessuno mai ha dato peso a effettivamente la mia crescita culturale, è stato difficile, impegnativo, certo io non voglio mettere a confronto la mia esperienza con gli anni 70, però quello che voglio dire è che forse c'è un dobbiamo renderci conto effettivamente della necessità educativa e pedagogica che c'è oggi bisogno, perché se non si parte da una matrice, ok, che riesca a comunicare con tutti, con ogni persona di estrazione, di qualsiasi estrazione sociale che magari non ha i mezzi, e ricordiamoci che in Italia c'è ancora una grandissima, anzi la maggior parte delle persone che non sta studiando, ok? E non è che dico che lo studio ti porta a quello, ma dico che c'è un grandissimo disinteresse. Sappiamo tutti che il grado di cultura in Italia si sta abbassando, ok? C'è un disinteresse e forse anche per questo che non c'è un'attenzione nello sciopero, che non c'è un'attenzione nei rapporti appunto di femministi, ok? E secondo me è proprio questo il punto, e ho trovato estremamente intelligente fare questo libro perché prima di tutto dà chiarezza a noi, chiaro, almeno c'è appunto nella prefazione questo la volontà di fare un sunto, una chiarezza, di dire però perché non cercare di rendere questo chiaro a tutti, a ogni persona? Questa è l'unica cosa che mi verrebbe da dire. Io ho una formazione da femminista materialista, ok, mettiamola così, e credo che però appunto partire da un'osservazione di quello che stiamo perdendo, dell'interesse che stiamo perdendo da parte di tutti, insomma, ma proprio perché non c'è più una comunicazione, ecco, effettivamente diretta. Questo è tutto. Scusate. Nel frattempo, visto che ci siamo un attimo dilungati, va benissimo, se ci sono domande continua la discussione, nel frattempo c'è l'aperitivo già allestito e poi c'è la mostra, quindi continuiamo con qualche domanda e nel frattempo c'è già per chi volesse. Il mio intervento riguarda in particolar modo, leggendo il libro, il testo di Federico Zappino riguardanti femminismo queer per una critica dell'eterosessualità. E, come afferma appunto Federico all'interno del suo testo, secondo cui non esiste discontinuità tra femminismo e queer, vorrei aggiungere che non esiste appunto poi discontinuità tra femminismo, queer e sessualità. Infatti noi ci rivolgiamo alle teorie queer come strumento di ribaltamento della sessualità, in quanto terreno mutevole sopra il quale nuove pratiche di discorso ridefiniscono le rappresentazioni eteroimposte. Rifiutando l'eterosessualità, di certo non si rifiuta la pulsione verso l'uomo, ma si rifiuta il simbolo dell'eterosessualità, ossia quello che l'eterosessualità rappresenta, cioè un sistema di dominio corporeo e comportamentale maschile sulla donna, che poi appunto rivela le sue implicazioni di controllo all'interno del ruolo sociale della donna, rilegandola in quanto moglie, madre o casalinga. Parlando di eterosessualità non riesco a non inserire due concetti fondamentali, ossia il concetto di femminilità e mascolinità e pericoli sottesi ad essi. In quanto quando fuoriusciamo dal regime dell'eterosessualità siamo trasportati in un campo minato di attacchi e giustificazioni da dare alla nostra non omologazione ai dettami eteroimposti. Soprattutto quando parliamo del di lesbiche, corpo sovversivo per eccellenza nei confronti dell'eterosessualità, in quanto effettivamente rifiuta anche l'uomo nella sua funzione biologica considerata come primaria, ossia quella di portatore di sperma, e quindi rinnegando anche l'uomo nella ricerca del piacere e discostandosi appunto dall'economia della riproduzione eterosessuale. E, qui l'uomo, diciamo che vede la donna scappare dalle sue dinamiche relazionali per eccellenza, ossia l'intimità. E, infatti il corpo lesbico è in grado di distruggere l'annoso assunto per il quale la donna non può vivere senza l'uomo. E, l'assunto secondo il quale lei non può amare se non lui, ossia appunto questa eterosessualità imposta nei confronti di tutte le donne e soprattutto anche delle donne lesbiche, in quanto non è possibile che effettivamente a te non piaccia il cazzo. Scusate. No, non scusate. ed è qui che poi ad assecondare questo presupposto storico di questo, diciamo, regime fallocentrico, che entrano in gioco delle, queste appunto giustificazioni al nostro essere, che appunto secondo me giustificazioni è la parola esatta da usare quando facciamo questo discorso, perché sono semplicemente delle frasi lanciate, dei presupposti, delle giustificazioni che vengono date alla nostra non normalità, come sei troppo femminile per essere lesbica, oppure sei effettivamente lesbica perché sei molto mascolina. E, quindi diciamo che non è possibile che una figura che non corrisponde ai dettami eteroimposti non sia sottomessa alla volontà sessuale dell'uomo. Ed è qui che si inserisce il pensiero di Monique Wittig, secondo cui effettivamente la lesbica non è una donna, perché rinnega l'uomo nella sua funzione di riproduzione, nella sua funzione di piacere sessuale, quindi non viene mai considerata effettivamente come una donna a tutti gli effetti. Ammettendo poi la divisione delle categorie del femminile e del maschile, diamo luogo a un'ulteriore divisione e invisibilizzazione della donna lesbica, dando così, come dice Federico Zappino all'interno del testo, per scontato che il rapporto sociale obbligatorio eterosessuale preceda ogni pensiero e società, cito testualmente. Quindi quando comunque cerchiamo anche di uscire dagli stereotipi socialmente dettati, ci troviamo sempre, diciamo, all'interno di una trappola dalla quale non riusciamo a uscire, perché a volte magari tendiamo a femminilizzarci per non sottostare allo stereotipo, oppure a mascolinizzarci per cercare effettivamente di non sottostare alle imposizioni dettate da questa eteronormatività. E quindi diciamo che ci troviamo sempre un po' in una situazione di in cui siamo un po' perse, in cui effettivamente non abbiamo un'identità ben definita, ma cerchiamo sempre di non essere un qualcosa, cercare sempre di sviare e di non capire effettivamente cosa siamo e possiamo essere. E infatti questa perdita di identità è poi enfatizzata dai continui attacchi, dalle continue giustificazioni che ci vengono fatte da altri che vogliono imporre il loro volere e la loro visione di quello che dovrebbe essere una donna su di noi. E quindi niente, come poi ci dice anche Judith Butler, che la femminilità è parte della commedia dell'eterosessualità, ossia questo teatro dell'orrore dalla quale non riusciamo purtroppo a uscire, perché siamo noi poi le prime magari a chiamarci troie tra di noi o dire all'amica quanto è bella con quel rossetto, con quel vestitino, però è effettivamente quello che la rende bella. Quindi diciamo che dobbiamo magari noi cercare di anche di rivedere come parliamo, come ci relazioniamo e come vediamo l'altro, soprattutto all'interno di dinamiche dell'ascolto e della comprensione dell'altro. E quindi finisco, velocissima, citando Monique, sempre Monique Wittig, che dice che praticamente attraverso la distruzione dell'uomo e della donna possiamo distruggere effettivamente il sistema eterosessuale e connesso poi al sistema patriarcale. Finito. Certo, mi dispiace che ti tocca, però forse un po'... No, in realtà saluta. Io avevo una domanda per Anna. No, allora, partendo dai presupposti del tuo ragionamento, no? Cioè che comunque in Italia c'è bisogno di uno scarto per quanto riguarda aggredire il piano della produzione, quando parlavi dello sciopero, giusto? Ma... Cioè, lo sciopero per come si sta dando adesso, ad esempio, che ne so, a me ha colpito tantissimo la dimensione proprio di piazza che portano una di meno, anche a Verona, il fatto che effettivamente in un'intera giornata sia stata paralizzata un'intera città, invasa letteralmente. Già quello è un punto di sottrazione rispetto al piano della produzione, di una produzione che, come dicevi anche tu, non è più solo di fabbrica, ma è una produzione all'interno della metropoli, all'interno della rete anche, perché poi banalmente sì, è vero che ci stanno i selfie, però nel momento in cui stiamo all'interno della piazza sono pochi quelli che magari stanno completamente alienati, perché magari è anche una piazza bella, festosa, cioè anche quella dimensione là è una dimensione di attacco, secondo me, cioè nel senso che comunque in un qualche modo posto il punto che la produzione e l'estrazione di valore si dà direttamente sui piani della quotidianità, non solo all'interno delle mura della produzione in senso stretto, ma anche attraverso i dati, tutto, diciamo, un altro piano che va oltre, no? Allora appunto il ritorno anche banalmente in piazza, nell'incontrarsi, nel sentirsi in un qualche modo così, all'interno della piazza, in queste dimensioni larghe, no? Cioè nel senso, come stiamo vedendo altre piazze che non sono state solo quelle di Non Una di Meno, ma anche di Friday, ma guardi, cioè nel senso, in un qualche modo anche nel fenomeno che sicuramente è molto più lontano delle sardine, che diciamo è la roba che più entusiasma la gente, il fatto che ci si trova tanti in piazza. Poi dopodiché sono veramente lontani sia Friday che Non Una di Meno dalle sardine in termini di rivendicazioni che si porta. Quindi il punto è: perché senti quell'esigenza? Cioè, nel senso, dove la senti l'esigenza? Sul fatto che magari, non so come te lo immagini te, che bisogna bloccare la produzione in senso stretto, quindi supermercati, o come facevi l'esempio prima del... Tu hai detto l'unico sciopero della cura che ho visto è quello, hai fatto l'esempio, no? Cioè, in realtà però anche, cioè io direi anche i scioperi che sta facendo negli ultimi anni Non Una di Meno sono uno sciopero in senso stretto anche, che va a bloccare la produzione, nel senso che ho detto prima. Quindi dicevo, in realtà la mia riflessione era riferita alla difficoltà di fare sciopero riproduttivo. E da quello che dicevi però mi veniva in mente una serie di cose, cioè Milano è la città dove è nata la May Day, che si è interrogata da subito come blocchiamo la produzione noi che siamo fuori dalla produzione, no? Quindi è chiaro che il tema è aperto, è chiaro che se il capitale oggi è circolazione, la produzione di valore si dà nella circolazione delle merci, blocchiamo la circolazione delle merci, stiamo interrompendo la produzione di valore. È chiaro, bisogna però fare in modo, dal mio punto di vista, detto che la mia riflessione, i limiti che io ravvisavo erano sulle difficoltà di fare sciopero della riproduzione. Se te c'hai un bambino piccolo, ti sfido a fare sciopero della riproduzione. E lì, quello è il nodo, no? Era quello il problema che volevo sollevare. no, quel giorno lì lo dai da fare al tuo compagno, ma è chiaro, lo dai da fare al tuo compagno o a tuo fratello o non lo so, a un uomo. È chiaro, è vero, è possibile, ma come la rendiamo una dimensione strutturale? Io ho una figlia, oggi sono qua, non sto scioperando, mia figlia è col padre. Io mi sono sottratta dalla produzione di valore della riproduzione stasera, ma non è una dimensione strutturale, non ne posso fare una lotta, è una dimensione mia soggettiva singolare. Allora, come rendere strutturale questa cosa, secondo me deve essere il nodo. Come rendere strutturale il blocco della circolazione delle merci, su cui la Mayday si è interrogata per anni, ma riusciva a bloccare una strada e non un'altra. Allora, ecco, sono un po' queste le questioni su cui ragionare. Non dico che non è possibile in assoluto, dico che però ho l'impressione che dobbiamo ragionarci un po' di più. Allora, io faccio delle domande vere. No, nel senso che trovo sempre delle volte un po' complicato, quando si parla di complicato, comprendere alcuni passaggi che, diciamo, non fanno neanche parte, per esempio, della mia storia familiare cioè di una storia di cui mi sono sentita parte mai nella vita. Non so perché sono nata a Milano, mi sento milanese, gli anni 90 ho vissuto ho fatto qui i miei studi, però mi rendo conto che non... E anche politicamente qui ho fatto tutte le mie esperienze, anche in giovane età, quindi non per forza arrivata, diciamo, in età universitaria. Però ci sono degli elementi che io non comprendo. E invece quando ho scoperto che cos'era il lavoro riproduttivo, ho scoperto che cosa voleva dire, che tutta la mia vita in qualche modo veniva messa a valore, soprattutto in quanto donna, in quanto corpo femminile, subito una serie di questioni hanno avuto un senso e hanno avuto presa su di me in maniera più forte. Elena prima accennava, comunque lanciava un po' sul tavolo il concetto di vulnerabilità. È un concetto che è un modo in cui senti che in qualche modo il tuo corpo ha un valore, ma può anche non averlo immediatamente successivamente, no? È un po' questo concetto di precarietà, no? Il tuo essere vulnerabile è per noi giovani nati negli anni 90, ancora non abbiamo neanche avuto la possibilità, forse, cioè l'emigrazione in qualche modo sembrava neanche una condizione obbligata, ma quasi una cosa normale, no? Te ne devi andare perché qua non vali niente, poi di là forse varrai qualcosa, ma fino a che termini? È quasi una condizione normale. A me fa molto peso quando vado in alcuni contesti non trovare i miei coetanei, trovare che possiamo tranquillamente sentirci sradicare da un territorio e andare in un altro. Perché è questo concetto anche della tua esistenza o non esistenza, che in qualche modo, anche in quanto corpo nero, poi non su di me nello specifico, che in qualche modo sono tutelata dal fatto di aver avuto un'istruzione, di avere delle radici in questo paese, non mi sottopone alla costante domanda. O comunque subito dopo posso rispondere, e basta usare un po' di accento milanese per far traperare il fatto che non mi si può trattare in una certa maniera, perché poi il pregiudizio è sempre forte. E allora mi sono chiesta quali sono gli elementi che non porteresti all'interno dei temi che sono stati affrontati nel libro. Quali sono i nodi a cui tu, Anna, reputi noi dobbiamo dare un linguaggio? Io credo che sia questo. Delle volte ci sono delle esperienze che nascono in maniera molto spontanea e che sicuramente sono frutto di ragionamenti teorici che incontrano delle esigenze reali, concrete, e incontrano la capacità di metterle in azione, di dargli le gambe fondamentalmente. E io mi sono chiesta, ok, ma quali di questi elementi a cui noi magari adesso, su cui noi ci stiamo interrogando, dobbiamo velocemente riuscire a trovare un linguaggio che sia un linguaggio comprensibile per più che noi? quando noi non riusciamo a comunicare, no? Spesso e volentieri perché fondamentalmente ci incartiamo e non riusciamo a parlare alla vita delle persone, a quel senso di vulnerabilità, quando tu lo provi, quando io riesco a trovare quella parola che ti fa scattare qualcosa, perché la parola in realtà poi concretizza, ti dà la possibilità in qualche modo anche di ritrovarti. E io mi sono chiesta più volte, quando noi in università abbiamo parlato di Filomena Essed, del gendered racism, per me è stata una rivoluzione, cioè io potevo non parlare di razzismo da una parte e di femminismo da un'altra parte e riuscire a combinare le cose, a capire che ci sono degli stereotipi che poi sono realmente, che rendono concreta questa intersezionalità anche sulle che ti dà anche l'idea di quanto sia sistemica questa operazione che viene fatta, no? Quanto allora non è la mia esperienza personale individuale, ma il personale è davvero qualcosa che è politico. E io mi chiedo davvero, cioè, che cosa dobbiamo ancora continuare a cercare di sviluppare un linguaggio, su cosa siamo indietro, ma troppo. So che non è una cosa che puoi ovviamente risolvere tu, però su che cosa magari rileggendo alcune cose dici ok, qua ci manca proprio il lessico. Cioè io credo che in Italia, per esempio, sul privilegio bianco, non io ovviamente, non abbiamo nulla. Come tantissime altre persone, immagino qua o in altri luoghi, dobbiamo leggere in altre lingue perché la nostra ancora non è, perché ancora non ci siamo interrogati profondamente. Quando quell'azione che citavi, che tante persone, no, ci hanno detto, ma noi a Milano manco ce ne eravamo rese conto di quello che avevamo, ma se non fosse stata la reazione che è scaturita, che ci ha fatto capire che il fatto di non aver compiuto quell'azione, come non una di meno firma quell'azione, ma il fatto di averla fatta compiere, tra virgolette, alla marea che in realtà correva per quel corteo, secondo me è stata la forza. Perché? Perché in quel corteo la normalità non è la normalità di chi ci ha additate come vandali, di chi ha voluto in qualche modo non raccontare il corteo, ma raccontare solo quell'episodio del corteo, e quindi allora darci ancora più voglia di interrogarci. E da lì noi abbiamo iniziato a interrogarci. Cioè spesso e volentieri, no? Un po' alcune suggestioni, e poi in realtà devi ancora ragionare, cioè noi ancora non è che siamo, cioè l'intersezionalità ancora non ha di meno, la guarda con una tensione giusta. E quando io penso, no, a tutte le assemblee in cui, ma perché non abbiamo le donne migranti, ma dove sono le donne migranti, un piagnisteo che dici vabbè, ma noi non possiamo vivere con queste ansie, ma dobbiamo interrogarci, e forse all'interno di una di meno che è al 99% bianca, ci si dovrebbe interrogare su qual è il privilegio oggi di una donna bianca. Noi non riusciamo a fare questa cosa perché la bianchezza non si interroga mai su che cos'è, guarda sempre all'altro, la normalità non si definisce sempre quello che è diverso, quello che è altro, e definendo l'altro non lascia lo spazio di dialogo, di comunicazione. Per cui io dico, ci sono un sacco di temi che ancora noi non siamo pronti a sviscerare, anche all'interno degli aspetti più, anche all'interno di quegli spazi più inclusivi, noi non siamo in grado ancora di interrogarci, perché non mettere in discussione noi stesse è molto complicato ovviamente, però in qualche modo attraverso alcuni elementi, e soprattutto secondo me il tema della vulnerabilità delle nostre vite, della precarietà delle nostre vite, siamo riusciti a incontrarci anche nella diversità del cosmo, della varietà di femminismi che abbiamo abbracciato, e di questa differenza, di cui però dobbiamo anche essere, cioè io mi sono interrogata su me stessa, ma ha senso fare delle assemblee solo con delle donne nere? Ha senso che ci interroghiamo su che cosa vuol dire essere donne bianche con un passaporto che ci permette di andare in tutto il mondo, in Italia oggi, laureate, con la possibilità di avere in qualche modo... E quindi tutta una serie di questioni che sicuramente, su cui ancora noi non siamo pronte a farci delle domande, ma abbiamo gli strumenti per poterne parlare? Guarda, io no, ovviamente non ho una risposta, lo sapevi, no? Però credo che la questione del privilegio bianco, per come la ponevi, è sicuramente una delle cose su cui un movimento ha il dovere di interrogarsi, perché se noi organizziamo degli incontri in cui abbiamo due tavoli in cui si parla di migrazioni, si parla di razzismo, e poi le uniche donne nere che io vedo sono quelle che distribuiscono i panini al catering, a me mi viene da spararmi un colpo in testa, abbiate pazienza. E allora sono d'accordo con te, abbiamo un problema serio con le questioni, con il non detto del razzismo italiano e della storia coloniale di questo paese completamente rimossa. Sono almeno 10 anni che io e con altri proviamo a insistere su questi temi, spesso facendo dei grandi buchi nell'acqua. Io adesso sono passata al terrorismo puro. Ai miei studenti, che in una scuola tecnica di periferia sono il 50%, sono ragazzini di origine straniera, gli do da leggere Butleja e Gli indigeni della Repubblica. Voglio vedere che succede. L'invito a assumere il ruolo dell'indigeno della Repubblica, che spacca tutto. Ci provo, che ne so, vediamo come va. Questi leggono, si passano sto libro e leggono, vediamo come va. Sono d'accordo, quello è il problema. Non sono invece d'accordo sulla questione della vulnerabilità. Non mi piace partire dalla vulnerabilità. Mi piacerebbe leggerla in un altro modo. Però mi fermo qua, poi magari ne chiacchieriamo bevendo una birra più sì, volentieri. Grazie. Allora, grazie a tutti, appunto Anna, Elena, Eleonora, tutti quelli che sono intervenuti. Allora, adesso c'è una seconda parte, la serata nella appunto saletta dell'Archivio Primo Vanoni, con una mostra con degli interventi di Ivan Bedeschi e Elsa Finardi, e poi c'è anche la mostra appunto con tutti i materiali straordinari disarchiviati dall'archivio, e che appunto sono insomma cose molto interessanti. Poi c'è un aperitivo. Quindi magari come conclusione di questa lunga chiacchierata, grazie a tutti.